Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E appunto in questo preciso istante inizia Rock Wave Live del mercoledì, la versione, insomma, l'appuntamento clou del settimana di musica live di Blu Radio Veneto, questa sera con un gruppo che giunge dalla altrettanto nebbiosa, come qui a Padova, Bologna, giusto? Maurizio, buona serata. Buonasera Sergio, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, vengono da Bologna. Avete trovato nebbia all'inizio, poi in autostrada e poi è arrivata a Padova e avete trovato la nebbia, come sempre. Esatto. Ma diciamo qualche banco di foschia. Qualche banco di foschia. Allora, la band si chiama Frank Spara, ma è composta da tre protagonisti, da tre personaggi. Due che hanno creato la band, che sono il batterista e il vocalist, il bassista, e poi la New Entry, che è il chitarrista. Che non esatto. Ho fatto un cazzo. No, non hai fatto niente, non hai fatto assolutamente niente. Com'è? Musicalmente hai fatto te qualcosa, sì. Sicuramente. Decisamente, hai fatto sicuramente qualcosa. Poi man mano spieghiamo le varie vicissitudini. Come è entrato lui. Perché l'idea è partita da Francesco e dal nostro batterista, che mi ricordo mai il tuo nome. Pete, per gli amici. Ecco. Come è nata l'idea, Francesco, di Frank Spara? Innanzitutto, da Liverpool a Bologna, cosa c'è? Ma la Liverpool è diciamo un posto più di tributo, nel senso la nascita l'abbiamo voluta fare mezza inglese, semplicemente per la nostra passione per la musica britannica, anglosassone. Sì. Benché abbiamo trascorso dei periodi ugualmente da quelle parti che ci hanno permesso anche di crescere e di accrescere un po' il nostro bagaglio musicale, culturale in generale. Certo. Però geograficamente e proprio topograficamente la band nasce a Bologna. A Bologna. Insomma, dall'incontro di questi due pellegrini, esatto. Io... Francesco Viani, io proveniente dal e nord, Pete D'Aleo, che è il batterista. E Pete D'Aleo proveniente dal sud, ci siamo incontrati. Anche Puccini ha trovato un sacco di gente a Bologna. Sì, a Bologna si trova un sacco di gente. Sacco di gente. Tra la via Emilia e West. Sì, sì, esatto, esatto. Esattamente. Visto che Guccini ha fatto l'ultimo disco, si parla di Guccini. Fra beh, beato lui, beato che lui, riesce ancora a farlo. Sì, sì, giusto, sì, beh, giusto, giusto. Ma io Guccini hanno convinto... Ho pianto molto quel giorno. No, ma infatti anche perché mi sembrava che poco prima avesse detto che smetteva. Esattamente. Ma lo dico anch'io continuamente. Infatti spero che sia di buon auspicio. Anche per... Adesso questa potrebbe essere l'ultima intervista. No, vediamo. Dobbiamo continuare. La musica è... La musica the show must go on. The show must go on. Ok, allora dimmi Francesco. Sì. Dal 2007 sono venuti fuori questi sono principi, venute, sì. Queste forme. Sono cambiate molte forme, le anime, le due anime, la mia e di Pete sono rimaste, per fortuna, a volte traviate, a volte ritrovate, siamo riusciti comunque a tenere sui binari questo progetto. Sì, a resistere. Abbiamo cercato poi pian piano anche di, almeno io che scrivo i pezzi, di cambiare un po' quelle che sono le tematiche da disco a disco, cercando sempre di trovare comunque quella che è la risposta. Che non è nel vento, però sembra una risposta. No, non è nel vento, è nella nebbia. È nella nebbia. Non si vede. Esattamente. Ma sì, stasera ci vediamo molto. Stasera ci vediamo. Sì. Assolutamente. Però, quindi, la risposta l'avete trovata la risposta con questo nuovo disco, praticamente, che è il disco più importante, il disco effettivo della band. Sì, anche perché soprattutto da un punto di vista tecnico abbiamo avuto modo di realizzarlo proprio a quattro mani, io e Pete, sì. Renna, che poi magari più avanti presentiamo per bene, è l'ultimo innesto. È la new entry. C'è una new entry con è già una cosa molto importante. Esatto. È giovane, si presenta bene. È giovane, quindi ai tempi del disco lui ancora non era nato, eravamo era solo... Era Renato comunque. Era Renato. Perfetto. E poi Renna in futuro. E quindi per questo è diventato il disco un po' più della band, perché abbiamo avuto modo proprio di far suonare il grande batterista Pete D'Aleo, quindi in quasi tutte le tracce, a differenza del disco precedente o dei lavori precedenti che nei quali quasi tutto tuo. Sì, erano molto più solipsistici. Esattamente, molto solista, un disco. Sì, infatti viviamo sempre un po' in questa ambiguità tra band, cantautore, soprattutto chi non ci conosce, chi vede dall'esterno a volte confonde magari una cosa con l'altra, ci confondiamo noi stessi, ma ci piace così, alla fine l'importante è che continuiamo in questo progetto insieme. Quindi il nuovo progetto si chiama come? Il titolo del nuovo progetto? Il titolo dell'ultimo disco è Il Dottor Crepapelle, l'albero che cammina. Titolo abbastanza significativo, sì. Perché misura, indaga, sulla un discorso, fai un'indagine anche pessimistica in alcuni momenti. Sì, beh, è vero, sì, non posso negarlo che il pessimismo sia sì, qua e là presente. Fa parte, ci sta, fa parte di certe però, considerazioni. Però più che le tracce di pessimismo, il discorso che cercavo di affrontare in questo disco era quello di arrivare a qualcosa che potesse portare, potesse spingere l'uomo, la propria umanità, oltre se stesso, sì, attraverso la conoscenza che non è necessariamente di sé, è proprio la conoscenza anche del mondo stesso. Quindi l'idea dell'albero era proprio questo, un albero che cammina e che sposta le sue radici da un suolo ad un altro. Musicalmente è un po' diverso dal disco precedente, l'hai lasciato leggermente, hai abbandonato l'elettronica. Sì, assolutamente. Assolutamente, perché già l'inserimento di Pit in pianta, cioè nel senso positivo del termine, ha dato uno scossone, quindi l'elettronica l'hai lasciata da parte, non dico relegata perché un pizzico di elettronica si sente, ma è una elettronica così a misura tua stavolta. Sì, assolutamente, ho cercato di dar valore a quelle che sono poi le possibilità dell'uomo, cioè quelle di suonare degli strumenti. Esattamente, di suonare degli strumenti. E quindi mi sono completamente svestito di quello che invece era un po' il mio abito privilegiato nei lavori precedenti, cioè quello appunto di utilizzare l'elettronica, tutti gli espedienti che in un certo senso ti aiutano quando sei da solo a fare delle produzioni, perché a suonare. Tu hai detto in alcune interviste, mi ero buttato proprio nel PC, cioè nell'elettronica, mi ero proprio immerso nel PC. Rispetto. Sì, sì, sì. Invece questa volta l'elettronica non dico ha fatto solo la sua buona parte che poi secondo me è quello che dovrebbe essere in generale il progresso. Oggi c'è un grosso abuso di progresso e di tecnologie che non servono effettivamente ai nostri veri bisogni. Lo stesso è nella musica, cioè l'elettronica aiuta tantissimo perché permette di risparmiare nastri, di risparmiare tempo, di risparmiare comunque di affrontare lavori anche più corposi. Tutto il resto sono fronzoli che rischiano di diventare un po' fuorvianti, soprattutto in un campo artistico. Certamente. Allora adesso abbiamo dato un'apertura, cominciamo ad aprire la nostra finestra, abbiamo scelto il primo pezzo per far sentire i nostri ascoltatori. Ti ricordi che traccia abbiamo scelto? Certo, la numero... No, abbiamo scelto la prima traccia del disco, che è Il suono universale. Perché è un suono diverso, secondo me, rispetto agli altri, a mio parere. È quasi una movenza quasi reggae momentaneamente. Poi le cose cambiano, ma l'inizio sembrava una movenza reggae. Sei d'accordo su questa considerazione? Sì, sono d'accordo. Io penso che il motivo principale per cui sia così è che c'è effettivamente una distanza di tempo di realizzazione tra questa che era stata la prima traccia che ho iniziato a registrare e le altre. Quindi era nata proprio, tra l'altro, prima di partire per Liverpool. L'ho fatta in fretta e l'ho messa giù così come mi è venuta. Il resto del disco è venuto qualche mese dopo, quindi più pesato, più pensato. Può essere quello che faccia sentire la distinzione tra l'uno e l'altro. Adesso lo sentiamolo, ok? Rock Wave. Rock Wave Live. Quello nero coi gemelli nel giorno dei morti. Una ghirlanda di pensieri tutta intorno alla mia testa, un mazzetto di ricordi. Stenderò il pianto alla finestra, una tristezza di bandiera al vento dei sogni. E chi vorrà trovare conforto e carità, un suono universale, soltanto ascolterà. Scioglierò il guinzaglio all'indolenza, il mattino nella stanza guardia del mio letto, avrò orecchie di conchiglia dove distillare il mare in un timpano perfetto. Tutto il silenzio di novembre sanguinarmi le ferite di una gioia sorprendente. E chi saprà provare la propria integrità spogliandosi nel vento, da solo si alzerà. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Dunque, abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento con i Frank Spara. Abbiamo sentito la prima traccia, il suono universale dal loro ultimo disco. Maurizio. Sì, suono universale. Anche musicalmente può essere universale questo aggancio, come ho detto precedentemente, prima di iniziare il pezzo, aggancia al reggae, un po' al valzer anche secondo me, in modo ironico, perché giochi anche sull'ironia, giustamente, sì. Nel disco. Sì. Oltre ad essere un'introspezione di te stesso, e non solamente di te stesso, anche del genere umano, giochi sull'ironia, e l'ironia è giusto giocare sull'ironia. Sì, anche perché io ho iniziato questo disco con questa traccia per un motivo preciso. È il risveglio dell'uomo che non si vuole in realtà svegliare, vuole rimanere nella sua sonnolenza mattutina, in quel limbo tra il sogno e la realtà. E in questa pigrizia di cui parlavamo prima, microfoni sì, spenti, microfono spento. Di questa pigrizia che tanto mi caratterizza, sì. Ne ho voluto fare così, un piccolo inno che è questo suono universale, cioè questo zzzz dei fumetti. E perché usi anche delle sonorità un po' particolari, anche non prettamente strumenti, usi anche fasi naturali, momenti, cinguettii. Possiamo sì, dire questo. Sì. Come mai questa idea onomatopeica di aggiungere le cose non prettamente musicali, anche se non è vero che il cinguettio è una cosa musicalissima, se mi ha consentito il termine? Ma semplicemente perché avevo. Io credo che tu ti riferisca alla traccia sì. Io sono l'albero. Esattamente. Avevo voglia proprio di creare in una maniera anche un po' becera la natura. La natura. E allora mi sono divertito ad andare sui colli, che sono lì vicino a casa mia, a Bologna, a registrare un piccolo estratto di natura, così dove poter fare uno sfondo documentaristico per quello che è il mio documentario sulla mangrovia, che è l'albero appunto oggetto di quella canzone. Esattamente. Quindi il suono ci stava bene. A proposito di progetto, visto che ci siamo, gli ascoltatori sicuramente devono sapere, vogliono conoscere Frank Spara. Com'è nato il progetto? Che era una cosa divertente all'inizio? Qualcuno te l'ha imposto così, i tuoi amici te l'hanno imposto? Ma sì, all'inizio quando ho iniziato a fare più questo percorso cantautorale, diciamo, di scrivere canzoni con delle parole, ho voluto dare il titolo al primo lavoro, non lo riconosco ora come un album della mia discografia, forse, e l'ho intitolato Frank Spara. Da lì è venuto fuori che si è fatto praticamente dell'artista il disco, del disco l'artista, e da questa confusione non mi sono più scrollato liberato, di dosso liberato. Questo nome, che tra l'altro insomma racchiude una certa violenza che non mi appartiene, io sono pacifista. Assolutamente. quindi pigro pacifista. Pigro pacifista, sì. No, qualcuno mi ha accusato di stigare la violenza, l'utilizzo delle armi, poi di questo periodo appunto bisognerebbe proprio fare il contrario. Esattamente. Però insomma l'idea di violenza che io avevo quando ho tirato fuori questo titolo era tutt'altro che propagandistica a favore delle armi, quanto proprio il gioco del, insomma, io non credo che un bambino che giochi con le pistole faccia del male a qualcuno, anzi, finché sono finte assolutamente. No, il nostro Battista non è molto d'accordo, perché Pete, cosa dici? Non sei d'accordo? Tuo figlio non gioca con le pistole. Non gioca con le pistole. E l'importanza di Pete, cosa ti ha dato Pete, il suono della batteria? Cosa ti ha scavato da un disco assolutamente cantautorale? Pete è il mio censore, appena adesso è riuscito a dissentire dalle mie affermazioni un po' pesanti. No, Pete, ho detto molte volte, Pete è la spina dorsale di questa band. Senza di lui probabilmente non saremmo niente, perché sarebbero solo le parole che io cerco di mettere su disco, su carta o dove capita. E Pete tiene in piedi davvero tutta la questione attraverso la sua unica forma di espressione, che è la batteria. La fase ritmica. Io vorrei che cantasse anche, però non vuole. Non voglio io. Perfetto. Vorrei, sei ma democratico. Non vorrei. Vorrei, ma non vorrei. No, ci stiamo lavorando. No, Pete, sì. Lo sento, io quando sono sul palco lo sento dietro che canta, però purtroppo non ha il microfono, la gente non lo può sentire. Ho capito. Vabbè. Ma a parte questo, lui esprime davvero attraverso la batteria tutta la sua, il suo potenziale, la sua energia, e secondo me è quello che mi dà motivazione anche ad andare avanti in questo progetto, perché credo che riuscire a dare un po' di energia con la batteria nei miei testi pigri, deprimenti, pessimisti, ma non solo proprio deprimenti in senso buono, sempre buono. Poi troviamolo quello in senso buono, però. E beh, la depressione è il preambolo dell'innalzamento dello spirito. E l'ovation che funzione ha avuto l'ingresso dell'ovation qui di Andrea qui a due passi, a due vicinissimo da me, quando c'è un ovation vicino mi dava un certo senso di vivantezza, di gioia. Dimmi Andrea, l'inserimento nella band com'è stato? No, scusami, chiariamo, perché probabilmente infatti i comunicati sono ancora riferiti al vecchio chitarrista che si chiamava Andrea Giorgetti, che salutiamo. No, lui non si chiama Andrea. Lui si chiama Renato. Renato, perfetto. Okay. Ma è conosciuto Renna. Come Renna. È conosciuto come questo Renna. Questo è un sottonatale, quindi va bene. va di moda. Allora, Renna è arrivato dopo di Andrea Giorgetti. È arrivato dopo per motivi di sostituzione impellenti, dopodiché abbiamo deciso comunque di rimanere, lui ha deciso anche di rimanere fedele al nostro gruppo, e quindi c'è stato questo nuovo matrimonio. Noi abbiamo avuto diverse peripezie con gli strumentisti precedentemente, ci siamo un po' scambiati gli strumenti anche per far fronte ai vari problemi del live, eccetera. E quindi attualmente siamo felici di avere nella Renna. Nostra formazione Renna. Perfetto. E l'Ovation. E soprattutto l'Ovation. E Renna, chiaramente. Un Ovation senza Renna. Non può essere. Che Ovation è, appunto. Allora, adesso a proposito di Ovation, suoniamo. Cosa dite, ragazzi? Vai. Va bene, sì. Che cosa cominciamo a suonare? Suoniamo un brano che dovrebbe essere, tra l'altro, il secondo presente nel disco, che si intitola Ma. Che è molto bello, come arrangiamento è molto particolare, molto interessante secondo me. Adesso vediamo come lo fate dal vivo in acustico o pseudoacustico. Pseudoacustico. Esattamente. Fai a volermi bene, io che ho un affetto costretto da catene. Ma come fai a perdonarmi, io che non riesco nemmeno ad ascoltarti. Ma come puoi starmi vicino, io mi allontano in modo più spedito. Ma perché mi cerchi ancora, io che in un anno sorrido circa un'ora. Ma come fai ad avermi avuto, che son scappato appena hai partorito. Ma eppure compassione per questo uomo stracciato su un portone. Ma come riesci a non odiarmi? Ho ucciso un figlio a meno di 20 anni. Non ho pianto un solo istante, nemmeno nel più intimo crepuscolo d'infante. Ma è tutto così incerto, ma son sicuro che tornerei al tuo letto presto, lo giuro, soltanto per curarmi. Vorrei trovare almeno il tempo per spiegarti, ma vedi, non credo che sia nei miei programmi. Io che non so nemmeno il giorno che ho davanti. Come fai a non vergognarti? Io che non tremo nemmeno quando piangi. Ma non ti faccio pena nell'inviolabile silenzio di galera. Ma com'è che mi comprendi che per te resto un sogno ad occhi aperti? Istante, nemmeno nel più intimo crepuscolo d'infante. Ma come fai a volermi bene? Io che ho un affetto costretto da catene. Ok, un pezzo, qualcuno ha scritto molto cupo, che parla di una amante immaginaria. Tu poni delle domande a un amante immaginaria. È così, Francesco? Falso. È falso, assolutamente falso. Cioè l'amante, no? Una figura femminile, possiamo sì, dire così. Si tratta cercato di mettere in canzone, cercare di parlare o di raccontare quello che è la solitudine dell'affetto materno nei confronti di un detenuto, di un criminale incarcerato, il quale è evidentemente insensibile ad ogni forma di affetto, di sentimento. E nonostante questo, mi affascinava il contrasto tra la possibilità di un grande amore materno e la potenzialità della crudeltà umana. Certo, certo. Quindi la cupezza nasce da quello, praticamente, che il critico ha estrapolato. Sì, vabbè. Dalla cupezza del carcere, del interiore carcere. Ed esteriore. Io ho sentito Renna, che ha fatto Giochetto con l'Ovescio. Interessante quello, Giochetto con l'Ovescio. Come mai hai fatto questo excursus con l'Ovescio coordinato da loro due? Chiaramente te hanno consentito di farlo. Beh, diciamo che fa parte poi del pezzo, insomma. Sì, parte del pezzo. Sì, musicalmente qui l'avete ridotto, però l'avete incorniciato pseudoacustico, mentre nel disco è più complesso. È un arrangiamento decisamente complesso, interessante. Ci sono parecchi stop and go fatte da Pete. In sì. Come mai Pete? Hai fatto un po' di stop and go, che ha un certo fascino, lo stop and go in un pezzo, secondo me. Sì, sì, in particolare in questo brano in particolare ci siamo insieme a Francesco, io un po' basati sul suono anni 70, più funky del pezzo, per quello nasce anche l'inizio che ha fatto Francesco. Esatto. In questa versione prettamente acustica era molto, non dico molto funky, sì, molto anni 70. Nel disco, nel pezzo, che abbiamo detto, è più allungato. E questo gioco dello stop and go ha un certo fascino, esatto. Una certa forza. Sì, sì, poi il fatto che comunque siamo in tre strumenti, si cerca di, almeno la batteria in questo momento, allora bisogna che dà più corpo al brano. E quindi per quello nasce lo stop and go. Ma è stato difficile costruire musicalmente un pezzo simile, al di là del testo che è interessante, ma musicalmente l'idea di fare queste variazioni nel pezzo sembra un pezzo che racchiude un altro pezzo assieme. Ma in realtà no, sinceramente è nato in modo molto naturale. Sì, sì, sì, è nato proprio, io ho praticamente dato la base musicale, insomma la traccia guida a Pete in studio, dicendogli di registrarci una linea di batteria che non era stata mai provata, E lì è stato proprio il momento in cui i nostri geni musicali, geni nel senso genetici, nel senso sì, nostri... è nato questo. È nato un DNA totale. Esatto, il DNA ha musicale. Dato frutto a questo. Esatto. Frutto. Sì, senza pensarci più di tanto. Mm. Infatti, anche tutto il disco, più o meno, è molto buono alla prima. Sì, ma suona bene il disco, secondo me. È molto raffinato. Nei giochi acustici è decisamente raffinato, io l'ho sentito più di una volta, per cercare di carpire tutti questi riferimenti acustici che vengono messi dentro. È fatto in una certa maniera, molto delicato, ragionato secondo me, io ho avuto questa impressione, è molto ragionato il disco. Sì, mi fa piacere, che abbia colto questa cosa perché... Perché alla fine è quello, che noi cerchiamo di fare, insomma. Ma anche dal vivo, alla fine. Dal vivo, un pezzo simile, come lo riesci a fare? Dai un impulso maggiore, qui l'hai fatto in acustico. Sì, qui è più ridotto, però dal vivo... Il basso che darà una spinta, anche lui. Un groove notevole. Esatto, il basso poi... Sì, diciamo che la parte forse più complicata da un punto di vista tecnico o comunque musicale generale ce l'ha Renna. E Renna dal vivo come si comporta? Che Renna da solo deve essere in grado di sostenere. Usa l'elettrico, chitarre, l'ovation. Una terza chitarra di rifinitura più la sezione di fiati che è nel disco registrato, quindi lui da solo con un ovation deve essere in grado di tirare fuori tutto questo. Io e Pete bene o male io rifaccio la linea di basso, lui fa la parte di batteria. Però Renna difende bene il suo compito, quindi si comporta bene. Quindi Renna è il centro dell'universo musicale di questo pezzo praticamente. Sì, sì, siamo sulle sue spalle. Dimmi, hai avuto difficoltà per metterti nella parte di questo pezzo? Sicuramente all'inizio per entrare sia nel appunto nei pezzi anche nel concetto, sì, sicuramente sì. Concetto di Francesco e di Pete. Sì, sì, però diciamo che è sempre stato comunque abbastanza naturale, ecco. Questo è assolutamente falso. È stato durissimo. Serena è qui con noi proprio perché fin dalla prima volta che abbiamo suonato insieme su questi pezzi li ha saputi subito leggere nella maniera giusta. Non è mica semplice, adesso stiamo scherzando, ma è difficile. Esatto. Secondo me e questo secondo me è una cosa che fondamentale, perché al di là del tempo che uno risparmia si vede proprio quella che è la sintonia musicale che può esistere tra dei musicisti di una stessa band. Certo, perché è difficile, perché secondo me che Francesco è l'autore, ma Pete può essere l'autore anche lui, cioè una simbiosi totale fra voi due. Avete dato un compito bello a lui, però sì, bello, lo doveva districare in una certa maniera, l'ha districato bene sicuramente. Sì. No, ha superato la prova in piedi. Hai superato la prova in piedi, sei promosso allora. Sì. Poi soprattutto... E ci fa mangiare molta cioccolata, questa ci fa venire il buon umore. È un fornitore ufficiale lui. Sì, sì, abbiamo appena mezzo metro di mezzo metro. Abbiamo comprato cioccolatini. Adesso fa freddo, è giusto che sia questo. È il nostro dispensatore di cioccolate. Sì, sì. Cosa dici, Sergio? Visto che fa freddo, è giusto dispensare. Proprio Babbo Natale, esatto. È lui. Visto che siamo in un periodo giusto adesso. Ok, adesso abbiamo sentito questo pezzo dal vivo. Facciamo un atto dal vivo, dai, così dopo. Sì, so che scombino sempre le vostre scalette, ma a Rockway le scalette vengono sempre scombinate al 100%, quindi non c'è problema. Allora facciamo Il miglioramento, che è un brano non presente nell'ultimo disco. È un brano a cui siamo molto legati. Ma il disco apparteneva dove, a miglioramento? Appartiene al disco soprattutto, che è il disco precedente. Che vi ha lanciato, ha avuto critiche molto favorevoli. È stato il primo disco che è uscito, diciamo, dalle mura domestiche o comunque più amichevoli, è andato anche sul pubblico più grande. E questo brano in particolare è un po' quello che io ho definito la canzone della nostra generazione. Avete venduto 1000 copie con Sopravento, mi pare, circa. Sì, tramite i concerti. Tramite siamo i riusciti concerti a vendere molti dischi. Sai che si entra in classifica quasi a vendere 1000 copie in Italia, o quasi. Sì, ormai, siamo là, ormai, vedi, Pete mi dice di sì, siamo là. Ma infatti ormai... Abbiamo fatto diversi studi su sta cosa qui. Ormai non è tanto difficile vendere le 1000 copie, è farsele riconoscere. Ah, questo è vero, questo è verissimo. Ok, sentiamo il pezzo allora. Lasciami il tuo numero di cellulare. Ho qualche cosa in mente, se vuoi ti potrei chiamare. È un piano suscettibile di qualche variazione. Bisogna far che tutti ballino questa canzone. E non importa che diventi un pezzo popolare, mi basta che nessuno corra il rischio di pensare. Per poco più di 3 minuti è una buona occasione. Sempre meglio che un impiego in amministrazione. Sabotare l'ottimismo è il mio primo ideale. È chiaro a tutti che qui ogni cosa funziona male. C'è rimasto solo l'intrattenimento. Il prezzo è alto, ma ciò che più mi dà sgomento è veder tutti in fila per avere sempre meno. Contenti di un divertimento mortale, ma non c'è posto più nemmeno per cadere. Guardali, continuano a ballare senza mai un lamento. Il pessimismo è l'unico mio godimento. Mi sento sempre peggio se mi impegno a migliorare. Non vedo margini di cambiamento. Continuano a ballare, guardali, continuano a ballare. Il pessimismo è l'unico miglioramento. Adesso sì, mi sento più contento e ballo. Brivido, stammi vicino. Ti farò vedere come muovo bene il bacino. Saremo solo io e te in questa stanza. Pensar che fino a ieri da solo ero già abbastanza. Fammi muovere con te, non farmi più pensare che ho scampato la guerra, che questo può far male. Come fa male veder crescere la popolazione. Qualunque stupida idea di una rivoluzione. Fammi intrattenere, non mi far dire che il pessimismo è una svolta e che si può guarire. Il pessimismo è l'unico mio godimento. Mi sento sempre peggio se mi impegno a migliorare. Non vedo margini di cambiamento. Continuano a ballare, guarda, continuano a ballare. Il pessimismo è l'unico miglioramento. Adesso sì, mi sento più contento e ballo. Mi sento più contento e ballo, e ballo. Rock Wave Live. Dimmi, dimmi. No, teneva il ritmo della base. Esatto, esattamente. Vabbè, i Frank Spara qui a Blu Radio Veneto in Rock Wave Live del mercoledì ci stanno presentando il loro ultimo disco, ma non solo. Il dottor Crepapelle e l'albero che cammina. Maurizio. Sì, questo è un bel tiro questo pezzo, decisamente sì, un bel tiro, vero Sergio? Molto. E tutto, Davide, tutto quanto anche dal punto di vista vocale, non respiravi neppure, proprio è una cosa incredibile. Troppe parole, ne dovrei tagliare qualcuno. sei stato velocissimo, però era veramente un bel tiro, soprattutto grazie al basso, alla batteria di Pete e grazie all'ovation di Renna che ha dato il suo contributo. Pensa se non avevi l'ovation. Pensa a te, non mi avresti mai chiamato a suonare con voi. Sono qui solo per questo. No, a me piaceva molto il duetto che hai fatto tra te e Francesco. Avete fatto voi due. Chiaramente Pete, che è il batterista, è al di sopra di tutte le parti. È al di sopra delle parti. Però è un pezzo che veramente aveva un'ottima predisposizione musicale, eseguita così dal vivo in questo momento. nel disco che non ho sentito, com'era? L'hai leggermente modificato per l'esecuzione live di stasera oppure è simile a questo? Diciamo che nell'esecuzione live ci piace estrarre quella che è la parte più grezza, quindi la sezione ritmica, il sound più essenziale. Nel disco, in quel disco lì, l'avevo leggermente variopinto con qualche sintetizzatore. L'avevi variopinto con qualche sintetizzatore, sì. Perché tu suoni anche i synth, cioè suonare le tastiere praticamente, sì, oltre a suonare il basso, sì. Tu sei un po' l'istrumentista. Sì, più o meno, insomma, tristrumentista. Te la cavi, insomma, praticamente. Sì. Bene, quindi l'idea era questa, perché dal vivo di solito si tende a modificare Francesco, Pitt e Renna. Ti chiamo Renna, va bene? Certo, il tuo nome, certo. Il tuo nome, mi ricordo bene. Renato. Renato, devi chiamarlo Renna. Renna va bene, adesso è il periodo giusto, va bene. Ma dal vivo c'è una volontà di modificare i pezzi volutamente oppure vengono così, modificati perché c'è la spinta del live? Com'è la cosa? Qualche pezzo va modificato per forza. Mm. Perché appunto ci sono troppi strumenti, noi siamo in tre e... Sì, perché il disco è abbastanza complesso dal punto di vista musicale, non ci sono solo tre strumenti, sono molti più. Ci sono molti più strumenti, non troppi, perché alla fine ho cercato di ridurli al minimo, però quando uno è in un disco si lascia andare più facilmente. Nel live cerchiamo appunto di valorizzare di più quelle cose che poi fanno breccia, quindi magari la parte ritmica, i riff di chitarra, cose del genere. Ci sono dei pezzi un pochino più complicati da cambiare, altri come questo sostanzialmente vanno soltanto spogliati di quello che sono i fronzoli dei sintetizzatori, eccetera. Certamente. E la scaletta come la predisponete, la scaletta dei live praticamente? Avete già una scaletta pronta o la modificate come succede spesso e volentieri? Noi siamo... La nostra band è un vascello senza timoniere. Ah, bene. Sì. Bene. Quindi noi andiamo a braccio. Andiamo a braccio, alziamo il gomito, insomma. Non si sa quello che viene. Sappiamo i pezzi che andiamo a fare, però poi non ce li ricordiamo. La scaletta in genere la facciamo mangiando quelle pizze fredde che ti offrono nei locali prima di... Insomma. Che sono sempre fredde, esatto, assolutamente fredde. Sul cartone della pizza ci è capitato a volte di scrivere la scaletta. Bello. Ma questo fa molto indie. Sì, esattamente. Benissimo, ok, sono le 20, dimmi. No, dico molto rock and roll. Vieni avanti. Rock and roll, cioè, no? Assolutamente rock and roll. Rock and roll è la fonte di tutto, c'è poco da fare. Elvis e poi tutti gli altri, qualcuno diceva. Non so se siete d'accordo, Francesco. Sì, o Pete o Renna. Sì, infatti, noi riconosciamo solo lui come re. Perfetto. Benissimo, sono le 22:47, stiamo piacevolmente dialogando con Frank Spara sulla sua genesi musicale, sui suoi intendimenti, sulle sue emozioni sonore. Adesso mettiamo su un altro pezzo da disco, stavolta quindi vi riposate leggermente. E vi ricordate che pezzo abbiamo scelto, che le tracce abbiamo scelto? Abbiamo scelto la numero 3. La numero 3. Che è intitolata Ti sogno ogni notte come sogna un disperato. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Blu Radio Veneto. Ti sogno ogni notte come sogna un disperato che non dimentica i sentimenti del sonno e ti raccolgo in un racconto che scrivo sulla mia bile più nera. Coloro gli occhi con i tuoi gesti che tengo per tutto il giorno. Mi leggo i polsi sempre più forte con questo sangue che ride fra le coperte sgualcite. Si ferma il tempo ogni mattino che non ti trovo accanto. Mi uccido di noia se non ti sento. E non ho freddo e non ho caldo, non sono umano quando ti penso. Divento sogno, mi divento segno che tanto insiste per il tuo sguardo. E mi commuovo se ti ricordo. E mi commuovo se ti ricordo. Io vorrei stare tutto l'eterno per le pendici del tuo fianco. Vorrei che fossi la mia presenza più che per sempre. Vorrei aspettarti prima di cena dal tuo ritorno. Ma so che che adesso non c'è tramonto che io non aspetti da solo. Sarai ogni volta quella che attendo, che ho avuto a tratti e per poco, che avrei inventato se non ci fossi, per condividere come un gioco ogni momento prezioso. Si ferma il tempo ogni mattino che non ti trovo accanto. Mi uccido di noia se non ti sento. E non ho freddo e non ho caldo, non sono umano quando ti penso. Divento sogno, mi invento un segno che tanto insiste per il tuo sguardo. E mi commuovo se ti ricordo. E mi commuovo se ti ricordo. E mi commuovo se ti ricordo. Che non ti avrò al mio fianco, affonderò la noia sotto il tuo passo. E non ho fame, non ho sonno, non sono umano quando mi accorgo che avrai per me una parola alla fine di ogni giorno. E son felice quando ci penso. E son felice quando ci penso. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, allora. È un pezzo molto interessante musicalmente, un po' cupo, ma non propriamente cupo. Anche alcuni critici l'hanno paragonato a un cantautore abbastanza di nicchia italiano, ma lasciamo perdere il cantautore di nicchia. Un pezzo scritto da Francesco, che Francesco suona tutto, esclusa la batteria che Pete dà una spinta. Suoni tutto Francesco, tutti gli strumenti, e Pete al di sopra di tutto che ti guida praticamente, è così. Sì, esatto. È proprio così. Esatto, c'è Pete che mi dà la direzione, c'è anche diciamo una specie di direttore artistico, forse direttore morale, che è Stefano Orlandi Orlo, il nostro carissimo manager, amico e tutto, fratello, che salutiamo. Certo. Che anche lui fa, è sopra, lui è sopra anche Pete, diciamo, sopra anche Pete. è un piano sopra. E sì, diciamo per necessità mi ritrovo a suonare magari tutto io, perché ci si permette anche di registrare molte cose magari nel proprio studio senza dover andare fuori, quindi anche in orari imprevedibili e improbabili. Molti anni 60-70 l'idea di registrare tutto da solo, al di là del punto di vista economico, chiaramente, non parlo del punto di vista economico, anche sì, di tempo. Di tempo, e poi comunque l'ispirazione rimane meglio o no? Si riesce a dare anche un'impronta diversa, perché alla fine avere la possibilità di suonare strumenti diversi, visto che io ho anche personalità diverse, riesco a fare di una band una persona. E un'altra cosa bella, questi cori che tu mi dicevi mentre il pezzo andava, gli incisi, sovraincisi te praticamente, hai fatto una specie di collage delle vocalità tue praticamente. Sì, ho fatto il coro. È bello, sì. Dà un certo senso un po' alla Beach Boys, un po' anni 60. Sì, beh, magari. Chiaramente mi fa piacere, decisamente folk, però questi coretti non in senso di spregiativo. No, ma ho capito benissimo quello che vuoi dire, anzi apprezzo veramente molto, anche perché devo dire che un disco in particolare dei Beach Boys è uno dei miei capisaldi, dei tuoi punti di riferimento. Punti di riferimento, almeno come discografia, di quella da tenere nel portafoglio. Perché le voci dei Beach Boys, non dico li hanno copiate tutti, ma ci sono tutti ispirati nei cori, alle sonorità, agli incastri vocali di questo gruppo straordinario. Sì, però non c'è riuscito nessuno. Nessuno è arrivato a quel punto. No. C'è poco da fare, sono loro e basta. Però ci riesce, ci si tenta, ci si avvicina, insomma, uno ci si gioca. Deve avere, diciamo, un punto di, sì, di arrivo. Poi se non ci arriva, non importa. Però almeno si è messo in cammino. Questo, abbiamo detto, questo è un pezzo abbastanza esteso musicalmente, non dico contrastato, ha sempre un ritmo abbastanza quieto, delicato, un delicato però un po' mosso in alcuni momenti. Sì, perché comunque... E perché il testo non è così delicato. A livello di scenografia siamo sempre dentro il letto, tra le coperte, certo. Voltolati nel torpore mattutino, siamo ancora in questo oblio del sogno. Il sogno, entra spesso e volentieri il sogno. Sì, che però qui prende, diciamo, un binario un pochino più sentimentale, sì, amoroso, sì. Che comunque ci sta il risveglio, insomma. Certo, certo. Ci può stare. Sì, ma non è proprio così delicato, secondo me. Cosa avete capito? Io non è così delicato, secondo me. Un delicato sì, ho però... dei musicisti un po' libidinosi. No, no, sì. hanno fatto delle interpretazioni, assolutamente. Vabbè, un po' libidinosi. Piccole interpretazioni. Sono le 22.55, quasi 22.56. Dimmi. No, se bimbi. No, forse magari Luca non è a letto. No, Luca lo salutiamo. È letto, 56, Luca. Luca è letto, il bimbo sì. del nostro. Lo salutiamo allora. Anche. Ciao Luca. Benissimo. Adesso è l'ora giusta per fare il solito giochetto. Non suoniamo prima. Ah, non suoniamo, sì. Come facciamo il giochetto? Dai, facciamo. Suoniamo. No, se arriviamo alle 11 giuste, siamo esatto, a posto. Esatto, alle 11 giuste. Hai perfettamente ragione, Sergio. Cosa dovete suonare? Qualcosa, non c'è problema. Romagna mia. No, Romagna mia. Mi hanno suggerito. Cioè, è storica. Sergio, hai detto qualcosa. Qualcosa. Qualcosa. No, adesso suoniamo. Allora, Pete mi suggerisce. Che è sempre. Come hai detto, che Pete è la spina dorsale della band. Sì, sì, sì. La spina dorsale. Ma non solo della band. Ah, non solo della band. Ci suggerisce di fare, di eseguire qui questa acustico. Bellissima. Sì, spostati un pochettino se non riesci a badare il colpetto alla. Ecco, okay. Perfetto. Okay, così. Bene. Okay. Perché stiamo. Cari ascoltatori, voi non lo sapete, però era vicino al piatto, era un po' difficoltà proprio. Il piatto era il cursore della chitarra, il jack della chitarra non andava proprio bene. E il brano si intitola Io sono l'albero, sì. Ah, io sono l'albero. Io sono l'albero. Benissimo. Sono l'albero senza parola, non so ascoltare le vostre ragioni. Nei miei ricordi metto radici, qui non esistono giorni veloci. Io sono l'albero, una mangrovia, mi muovo lento. oltre la storia. Ogni mio passo è fuori dal tempo, mi sposto sfuggendo ad ogni sguardo. Io sono l'albero, sto sempre solo, ma non mi abbatto né mi consolo. Io sono l'albero, tu non lo vedi, ma mi trascino con i miei rami. Dentro la sabbia, il piede a fondo, mi fermo solo quando è il momento. E se mi guardi, io ti conosco, porto da anni il nome del mondo. Lo porto scritto nei cerchi del legno e con le foglie te lo racconto. Oggi però è un giorno diverso, tu mi contempli ed io vado a fondo. Io sono l'albero ed ora aspetto di riscoprirmi in altro mondo. Regalo al mare senza spavento il mio riposo e un nuovo incontro. Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. I Frank Spara insieme a noi, questa era l'albero, delicata, tranquilla. Sì, bellissima. Soprattutto volevo sottolineare una cosa, l'introduzione canterburiana, a mio parere. Poi le cose sono cambiate, è andato un pezzo cantautorale, come hai detto giustamente Sergio, ma all'inizio era canterburi, assolutamente canterburi, a mio parere. Non so se siete d'accordo. Anche a mio parere. Bene, sì. Bene, mi fa piacere che tu... Io amo particolarmente Canterbury, io ho una certa età, cari ragazzi, sono giovane come voi, e quindi Caravan... soprattutto i caravan sono Canterbury, c'è poco da fare. Queste introduzioni, questi giochi chitarristici, questo sottile gioco della batteria, questa chitarra, questo basso lentamente avvolgente, è Canterbury. Assolutamente. È un poeta, è un poeta. È grandissimo quando descrive queste cose. Ok. Adesso facciamo giochetto, cosa dici Sergio? Sono 23:02 in perfetto. È ora. Allora, giochetto molto semplice. I dischi da portare su un'isola deserta. Quanti ne facciamo, Sergio? Cosa dici? Abbiamo tempo, possiamo farne 5. Adesso ti spiego come. Dovete scegliere alcuni dischi da portare su un'isola deserta, i vostri amori musicali, che non si può copiare. Quindi ognuno deve scegliere il proprio, senza interferenze, perché la regola ferrea di Rockway da molti anni è questa. Chi vuole cominciare? 5 a testa, caro Renna. O Renato, che è la stessa cosa. Allora comincio io, che magari ne ho qualcuno molto popolare, così dopo non mi copiano. Bene. Allora andiamo così. L'ho detto prima, quindi lo ripeto. Pet Sound dei Beach Boys. Ah, ecco, non avevi citato l'album, però hai citato l'album che Paul McCartney ha detto è bello quanto Sgt. Pepper. Forse Sgt. Pepper nasce da Pet Sound. Esatto, e forse secondo me Pet Sound è più bello di Sgt. Pepper. Bene, vediamo, tutti i fan dei Beatles non saranno contenti. Ma io sono uno dei più grandi fan, sì, assolutamente. Perfetto. Però riconosco che, vabbè, lasciamo stare. Ma il dibattito è bello. Sì, è anche interessante. Però, vabbè, poi a parte Pet Sound, andando in ordine cronologico da prima a dopo, Simon & Garfunkel, Bridge of a Troubled Water. Perché Bridge, o se no o America, o qualche disco prima, o Sound of Silence? Perché Bridge of a Troubled Water? Soprattutto Bridge, perché c'è l'assolo di Art Garfunkel, o perché Bridge ti piace? No, penso che sia veramente nella loro... Il culmine della loro produzione. Sono un fan, forse più Simon & Garfunkel che Beatles nella mia discografia preferita, però penso che sia il più maturo e anche un po' il più vario. Anche il canto del cigno, però, per loro. Sì, ma per esempio dei loro dischi preferisco, cioè mi piace molto anche il primo, Wednesday Morning, certo, 3 a.m. Certo. Che è molto bello e poco conosciuto tra l'altro, però se dovessi sceglierne uno sceglierei Bridge of Troubled Water. Perfetto, un disco che è stato un disco vendutissimo in Inghilterra, è stato 2 anni in classifica in Inghilterra. Sì, sì, è poi, sì, un pezzo mirabile, bravissimo Sergio, un pezzo mirabile, c'è poco da fare, meraviglioso. E poi porterei d'italiano il nostro caro Angelo Di Battista. Perché Lucio? E Lucio in quel periodo, il nostro caro Angelo. Adesso ti faccio tutte le domandine, sì, vediamo cosa rispondi. Perché Lucio in quel periodo? O so il periodo prima o il periodo post Mongol? Il periodo post Mongol non ti interessa? No, il periodo post Mongol, che è molto ricercato, molto di ho avuto modo anche di conoscerlo, ho due dischi di quel periodo, però non mi piacciono le sonorità semplicemente. A me le sonorità più sono tutte elettroniche, sì, degli anni 80-90 non mi piacciono molto. Secondo me il Battisti del periodo del numero uno della sua etichetta di quegli anni era il Battisti più libero veramente, e anche Mogol secondo me era nella fase proprio più ispirata. Quindi il nostro Carancio è uno dei pezzi più importanti, una perfetta unione fra di loro. Sì, io me li porterei tutti quei dischi di quel periodo, di Lucio, però sì. Dovendo scegliere scelgo il nostro Carancio. Perfetto. E a quanti siamo? A tre. Ancora due adesso. Allora, non so, potrei dire... è molto scontato, però a dover scegliere lo sceglierei. Certo. Stiamo parlando poi di musica pop, perché io magari mi potrei, non so se può valere come cosa, certo, il concerto numero 2 di Rachmaninov per pianoforte e orchestra, quello ascolterei. Ma bellissimo, bellissimo. Ore, quindi lo mettiamo come disco. Ma certamente, assolutamente. E allora qui, no? Te ne manca ancora uno. E allora qui mi dovete aiutare, perché io sarei indeciso tra un Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Oppure andare proprio sul leggero. Dai. Che uno non se l'aspetta, un Thriller di Michael Jackson. Perché? Qualcuno ha detto. Oh. volevo tirar fuori un po' di polemica, perché alla fine qui eravamo tutti d'accordo. Thriller di Michael Jackson of the Dark Side. Non c'è paragone, però la genialità c'è, quello sì. Però comunque alla fine uno non è che può ascoltare sempre musica, giusto, impegnata. Alla fine uno Thriller è impegnato. Se devo andare a ballare con una ragazza nella luna o dove sarò con i miei 5 dischi, ho bisogno almeno di un disco un po' più movimentato. Insomma. Allora, per tagliare la testa al toro, te lo dico. E qui lo dico e qui lo confermo. Invece di questi due ci metto il disco degli School Snaps, che è una band pochissimo conosciuta degli anni 70, funky, che ha fatto solo quel disco con questo nome, quindi disco omonimo. È un disco molto funky, soul, e con quello così qui tagliamo la testa. No. Facciamo il batterista, dai Pete. Vai. Tocca a te. Beh, allora io che dire? Quello che vuoi. Beh, porterei innanzitutto James Brown. Ah, vedi, il sole assolutamente. Sì, perché vabbè, poi fa parte del mio genere. Del tuo, no? DNA, sì, esattamente. Quindi il funky lo porterei assolutamente dietro. Poi dei brani che comunque conoscevo. Però sto approfondendo adesso di più. Ma non so neanche perché adesso, però piano piano sta prendendo questa vena qua, che poi spero che poi faremo anche la cover di questo autore, che è Bill Withers. Ah, Bill Withers. Che anche lui, insomma, del genere, certo, no? Certo. Funky, sì. Ma come mai ti stai buttando sul funky? Perché a me piace. Ti piace? Ma non puoi adoperarlo nella formazione con cui suoni, assolutamente. O puoi non fare posso? Sì, puoi. Qualche discrezione le puoi fare. Sì, qualcosina. Sì, non è detto, non si sa mai. Che deve fare. Non... A me piace. Appunto, non si sa mai. Non sì, sa. Sì. Esattamente. Non è detto che bisogna farlo per forza. No, assolutamente. Così. Ecco. Poi porterei di italiani. Beh, di italiani ce ne sono diversi. De Gregori, Battisti. Battisti quale? Visto che abbiamo scelto il nostro caro Angelo prima. Non puoi copiare. Non puoi copiare, sì. Esattamente. Dischi ne ha fatti tanti Battisti. De Gregori lo stesso. Anche l'ultimo di De Gregori è bellissimo, secondo me, a mio parere. Si è sentito un brano di De Gregori. Io lo trovo molto bello, bello. Un grande ritorno, a mio parere, dopo lo so. Sì, di Battisti, sinceramente, non mi ricordo quale album è. Però me l'ha fatta conoscere mio figlio, che ha 3 anni. Bravo, complimenti a tuo figlio. Cosa ti ha fatto conoscere? Che pezzo ti ha fatto conoscere di Battisti? E mio figlio ha fatto conoscere il pezzo che si chiama... Non so. E non mi ricordo come si chiama. Forse lo sentiva, piaceva, si muoveva sentendo il ritmo di questo pezzo. Sì, che poi non c'è tanto ritmo. No, ecco, vedi, allora... molto melodico. Piaceva a tuo figlio, è stato praticamente calamitato dal pezzo di Battisti. Non so perché. No, però vuol dire che... Poi... per stare un po', per ballare un po', porterei, e per scherzare un po' alla fine, Carosone. Ah, beh, bravo. Perché comunque a me la musica napoletana piace, la vecchia musica napoletana, quindi porterei dietro Carosone. E per finire, vuol finire con un qualcosa di più moderno, anni 90, a me piacciono parecchio i Soundgarden. Ha fatto un disco... è uscito 2-3 mesi il 17 fa. novembre, sì. 2 mesi fa circa. Sì. Ti è piaciuto? Super Unknown, abbastanza, perché comunque mantengo la linea sempre. Qualche critico, qualche maligno ha detto perché quello, il cantante, il disco solista non ha venduto niente, allora ha dovuto assolutamente ritornare con la band. Cosa dici? No, non dico questo. Per qualche critico, qualche maligno. Qualche maligno l'ha scritto. Però alla fine sono rimasti comunque quelli che erano anni 90. E questo comunque... non è cambiato nulla, No, no, è rimasto uguale. Anche i suoni. Anche il suono, sì, identico. Che sembra un disco che è uscito in quegli anni. Certo, e loro sono, è quello il loro marchio. Poi alla fine loro, ognuno ha fatto la... per un periodo ha fatto... ognuno ha fatto i loro progetti, ma non è detto che poi ritornano indietro. E non vuol dire che bisogna... parlare male per forza. No, perché... ma qualche volta per scrivere bisogna per scrivere per questo. Le pagine dei giornali bisogna certo, scrivere. Soprattutto quelli specializzati, ho presunti tale. Esatto. A te, Renna, tocca a te. Ci ho pensato fino adesso. Hai avuto tempo di pensare fino adesso. Allora, sicuramente e questo... ride, Sergio, sta ridendo, Sergio. Sorridendo. Beh, allora, questo è l'unico che è proprio primo. La tua lista. Lo dico per primo perché è primo assolutamente. E, che è di questo gruppo non molto conosciuto che si chiamano Mars Volta. Eh beh, insomma, è abbastanza. Conosciuto. Un po' di prog, fanno un po' di prog. Sì, esatto. Però il migliore è Francis The Mute, che è il secondo, che è fighissimo proprio. Bene. Cioè, tutti i generi musicali si possono trovare. Sono molto bravi loro, tante cose. Dall'hard rock al funk alla salsa. Un po' di tutto. Esatto. E quello è il primo. Poi dopo, allora, metterei, così per fare un po' il metallaro. Tu sei metallaro d'origine. Non troppo in realtà, però i Rage Against the Machine sicuro. Metallari ben potenti, ben bravi. Sì, insomma, metallari con criterio. Certo. Poi, siamo a due, direi i Led Zeppelin sicuro. Quale? Quale... verrebbe da dire i primi due, però in realtà forse il mio preferito è The Houses of the Holy. Ho capito. Perché anche quello c'è dentro di tutto alla fine. E adesso che hanno fatto Celebration, quella... esatto, quel concerto che adesso è stato rivisto da un sacco di gente. Non lo so. Beh, è una cosa, l'hanno fatto una volta solo. Hanno sempre detto no. Perché tanto però c'è il figlio di Bonzo che ha fatto un'ottima, non dico che sembrasse Bonzo, però musicalmente era perfetto. Assolutamente. Scusa, tutte a memoria, lei conosceva tutte a memoria, ha detto Page. Le conosci tutte a memoria? Meglio di loro, meglio di me, ha detto Page. Chiaramente. E quindi forse metterei Houses of the Holy così perché è più variegato, senza nulla togliere i primi due, primi tre, anche quattro, direi. E quindi così poi direi Equalong dei Jethro Tull sicuramente. Ti piacciono? Sì, da matti. L'hai visti qualche volta di recente? Li ho visti, sì, ne sono rimasti pochi, però sì, è rimasto gli originali, lui praticamente. Sì. Lui li ha triturati, esatto. Perché lui tritura tutto, sì, praticamente, sì, sì. E lui e basta, c'è poco da fare, sì, sì, è veramente un leader, li ha fatti fuori tutti, sì, sì, sì. Cioè, c'è la famosa leggenda che quando era in concerto, quando ha visto i Gentle Giant che erano più bravi di lui, ha fatto fuori anche i Gentle Giant, sì, sì. È vero, è mica una leggenda metropolitana, è proprio così, in certe tournée, siccome i Gentle Giant erano molto più bravi dei Jethro in alcuni momenti, musicalmente erano delle bestie, sì, sì. E ha fatto fuori, cioè, erano un gruppo supporto, sono dovuti transitare, praticamente togliersi dal calendario dei Jethro, perché i Jethro, il pubblico amava più i Gentle Giant che non i Jethro Tull. È una cosa incredibile, e Ian Anderson è sempre stato così, un egemone, ha spaccato tutto, c'è rimasto solo per tanti anni il bassista Barr, per tanti anni è rimasto lui, solo l'unico componente, lui è rimasto ancora, sì, Barr, sì, per tanti anni, sì, l'unico componente che è rimasto nella band, poi li ha fatto fuori continuamente, e lui così. Abbiamo parlato di Jethro Tull benissimo, mi pare. Benissimo. È l'ultimo pezzo, l'ultimo disco. E l'ultimo, direi gli U2 sicuramente. Forse io direi, non so se è quello che preferisco, però sicuramente è stato il mio primo disco proprio che comprato. Ho avuto, esatto, che l'ho ascoltato una marea di volte, che è All That You Can Leave Behind, uno abbastanza recente. Esattamente. Io che ho una certa età avrei scelto The Joshua Tree. Anche io, degli U2 avrei scelto. U2, secondo me, gli U2 hanno fatto secondo me non è il migliore. No. Ha fatto tante cose bellissime, ma già sulla prima è rimasto dentro e mi rimarrà sempre dentro. Ha dei bei pezzi, ma in generale non è il mio preferito. Perfetto, no. È giusto che sia così. Ti sei giocato. Sì, sarò la partecipazione. Cosa dici, Sergio? Facciamo sentire un pezzo da disco, così facciamo riposare, abbiamo parlato tanto. Che cosa abbiamo scelto come traccia, Sergio? La traccia numero 4, stiamo praticamente andando in ordine, Voglio Diventare Cretino. Perfetto. La sentiamo e dopo magari ne parliamo. Prendere una laurea in comunicazione. fa bene, soprattutto a chi comanda. Sì, voglio diventare cretino, cercare la vittoria che manca e resistere. Sì, posso diventare cretino con un po' di Rock Wave Live. I Frank Spara ancora qui con noi a Blue Radio Veneto fino alle 24. Maurizio. Sì, devo farti notare una cosa, Sergio. Sì. Visto Renna è freddo, ha portato un po' da... Come si diceva prima, è colui che porta la cioccolata. La cioccolata, visto che è freddo, ha deciso di darci una mano. Perché fa molto freddo fuori. Parliamo di questo pezzo, Francesco, allora. Sì, penso, anche questo bel giro, bello. Bel giro, sì. Esattamente, che prende testo abbastanza pendente su certe molto cose. Popolare. Molto popolare. Molto sì. Popolare, ma allo stesso tempo impopolare. Mm. Nel senso, ho pensato, oltre il miglioramento, che era il brano che abbiamo fatto prima, che in cui diciamo esaltava il pessimismo come unica chiave di lettura della società contemporanea. Ho cercato di spingermi oltre e ho pensato, perché essere pessimisti? Bisogna invece diventare cretini per poter digerire questa realtà così, così dura a mandar giù. E quindi mi son divertito un po' a scherzare su questa cosa. Hai scherzato su te stesso, ma... Cercando di immaginarmi come potrebbe essere la realtà vista con gli occhi di un cretino. Ma in fondo lo sono, è un cretino. Ma siamo tutti cretini su certa... Ma io lo sono di più, perché il mio ostino, solo nell'ostinarmi a fare quello che faccio sono un gran cretino, però almeno ho realizzato un po' il sogno di quella canzone, ci sono diventato. Ma realizzare il sogno di un disco non è essere cretini, secondo me è essere... volere una cosa, il disco, voler fare un disco è una cosa bellissima, secondo me. Sì, ma infatti bisogna anche ridare dignità al cretino in sé, perché alla fine non c'è niente di male a essere cretini. No, cioè, assolutamente no. Sono come dire sorti che capitano. Può capitare. Bisogna amare il proprio destino. Il mio destino è stato quello di essere cretino nel voler fare il musicista o comunque a voler provarci sicuramente a scrivere, a cercare di esprimere qualcosa attraverso la musica, la canzone. Però al di là di questo devo dire che la realtà non mi va giù lo stesso, insomma, quindi piuttosto che essere un cretino da quella parte preferisco essere un cretino da questa parte. Perfetto. Musicalmente come l'hai inventato questo pezzo, visto che i pezzi li hai scritti, cioè musicalmente li hai interpretati tutti qua escluso la batteria di Pete? Ma decisamente, come giustamente ha sottolineato Sergio, ha un bel tiro, un bel movimento, prende. Sì, per dove essere così? Io ho bisogno di sfruttare Pete. Di sfruttare Pete. E Pete in queste cose. Ma Pete ti dice: tu hai detto, hai scritto il pezzo, musica l'hai scritta a te. Ma che consiglio ti può dare Pete in un pezzo simile che è molto accentuato? E Pete è il più severo dei miei ascoltatori, dei miei critici, dei miei consiglieri. Non si sbottonerà mai troppo in complimenti o in cose, però c'è un modo che io ormai dopo anni di amicizia sono riuscito a decodificare e quindi diciamo che io gli faccio sentire quelli che sono i miei pezzi più o meno ormai abbastanza compiuti da un punto di vista melodico e armonico. E io magari da un pelo di ciglio che si muove in una direzione piuttosto capisci, che un'altra riesco a capire se il pezzo può andare bene oppure no. E siccome Pete è uno che insomma questi ritmi abbastanza... Sì, lui ha parlato di funky prima. Abbastanza tiranti, e gli piacciono, gli piace Pete, non tirare, gli piace il pezzo che tira. Ho voluto insomma dar sfogo a questa cosa qui, insomma alla fine la musica non deve essere troppo cervellotica per quello che mi riguarda. A me piace molto il fatto di poter mettere insieme dei testi che sono il veicolo veramente più popolare, più della musica, perché le parole sono un linguaggio che tutti conoscono, certo, più di quello musicale. Poi in italiano dobbiamo tener conto, in italiano, e quindi non è mica semplice il discorso, è molto più complicato, anche perché l'italiano dei nostri tempi sta pian piano prendendo una piega. E poi molto spesso qualcuno non si rifugia, decide di cantare in inglese, sono scelte. Decisioni, sono scelte, assolutamente sono scelte, però se la lingua italiana è quello che è... Ma è difficile la lingua italiana, anche da musicare, da comporre, o no? Sì, è difficile, almeno. È difficile perché ha molte possibilità, però allo stesso tempo è schiava della sua stessa metrica, dei suoi accenti. Certo. E riuscire a far coincidere una lingua che io definisco molto antica, perché comunque la lingua italiana è abbastanza antica a livello di struttura, con una struttura musicale invece molto, molto moderna, molto semplice, tra l'altro, perché questo qui parliamo veramente di un pezzo dritto. Sì, immediato. Ci sono quattro battute. Sì. Mi piace questa unione tra questi due universi che devono esistere per forza in una canzone. Perfetto. Una cosa che devo chiederti, l'arrangiamento, il fonico, chi è stato che vi ha dato una mano per registrare il disco? Sei sempre di te. Fonico, perfetto, hai fatto tutto. Cioè, io pensavo che fosse stato un fonico, cioè uno che avesse dato, al di là quel personaggio che hai citato prima. No, noi abbiamo registrato le batterie per motivi di spazio e di studio, proprio in uno studio. Logisti in quello studio. In uno studio con il suo fonico. Però il missaggio è tutto e opera il lavoro tua. Di post-produzione l'ho fatto io con Pete. Magari l'aiuto di Pete, soprattutto su quindi lui. Assolutamente vostro, quindi in prima battuta tutta presa diretta o quasi. La batteria lo è stata. Buona la prima, esattamente. Ma infatti il discorso che facciamo all'inizio, liberarsi dell'elettronica, certo. È proprio questo, anche proprio il lavoro sulla produzione era improntato proprio in una maniera di eseguire non più magari soltanto il riff o il pezzettino di chitarra magari da copiare e incollare successivamente, ma di suonare veramente il brano dall'inizio alla fine, proprio per dare un qualcosa di più umano, di più musicale al brano, invece certo. di questa musica un po' finta che rischia di essere la musica, soprattutto adesso che chiunque può fare. È in grado può di fare con un computer, siamo tutti bravi. Ok, suoniamo allora adesso a proposito di suonare. Sì, sì, sì. Che cosa Pete e Francesco e Renna? Neve. Ok. Tutto dal vivo, assolutamente. Sempre pensato che tendere al meglio avrebbe portato ad un senso più ampio di cosa significhi avere successo, per cosa si possa temere il confronto. Se quello che ho fatto mi sembra sbagliato, ammetto potendo ritornerei indietro. Eppure ho pagato ogni singolo sbaglio, è questo che adesso mi spinge più in alto. Fammi cadere dai piani più alti, fammi tornare dove ero con te. Anche la neve meravigliosa cade. avessi ascoltato l'amico più saggio, mi avrebbe convinto che il bello non nasce se non dal calore. Esprime sublime senza rumore, svanisce la neve, la neve. Così mi compiaccio di quello che faccio, illudendomi forse che valga parecchio. A volte ripenso a un controllo subito, a volte ci penso a lanciarmi nel vuoto. Fammi cadere dai piani più alti, fammi tornare dove ero con te. Anche la neve è meravigliosa, cade in questo inverno. Fammi cadere dai piani più alti, fammi tornare dove ero con te. Anche la neve meravigliosa cade, cade, cade. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Maurizio, un'altra mezz'ora insieme ai Frank Spara qui a Blu Radio Veneto. A me è piaciuto molto la parte finale del pezzo, oltre a me è piaciuto tutto, ma la parte finale è cambiata, avete rallentato. Bello, come mai avete rallentato? Voglio sapere il perché. Chi ha avuto l'idea di rallentare, di cambiare le consuetudini del pezzo e poi leggermente riprendere? È venuto. È così. Come dice la canzone, in questo volo. Esatto. È stato il momento registico dello stop prima della caduta. Della caduta. Bello. A me era molto interessante. Molto anni 70, secondo me. Ci piace. Ma è una cosa positiva. È una cosa positiva. Grazie. All'inizio di trasmissione abbiamo parlato dei riferimenti, dei collegamenti agli anni 70 inglesi, e certe cose ci sono, sì, ma non sono cose positive al 100%, sono bei riferimenti, devono rimanere. Sono quei geni musicali, geni genetici, che dicevamo prima. Abbiamo il nostro DNA ormai composto dagli ascolti fatti forse in infanzia, forse in adolescenza, che in qualche modo condizionano poi tutto lo sviluppo musicale. E a proposito di sviluppo musicale, se uno vuole acquistare il vostro disco, dove lo può trovare, Francesco? Ma il disco si può trovare in qualunque negozio, è distribuito da Self, per cui... Quindi è una distribuzione ottima. Altrimenti si può scaricare, se qualcuno è più amante dell'immediato, si può scaricare su iTunes, su Amazon, su qualunque store digitale. E avete dei concerti da fare? Riprenderemo il nostro tour che cammina in febbraio. Saremo in Piemonte, impiegati in un paio di date ad Alessandria e a Casal Monferrato. Dopodiché saremo a Roma. Bene. Giriamo un po' l'Italia quella. È difficile suonare pezzi propri adesso, secondo voi, in questo momento storico, da Bologna e non solo da Bologna? Perché qualcuno è venuto da Bologna e diceva: Bologna c'è una crisi, c'è difficoltà di suonare nei locali. È vero questo? Ma secondo me la difficoltà è dappertutto. Non a Brescia però, io ti cito Brescia perché ieri sono da un gruppo di Brescia, e a Brescia c'è una vivacità notevole, c'è un sacco di gente che suona, ci sono tanti locali che ospitano gente che suona pezzi loro, non cover. Ma il fatto non è esatto che non ci siano locali, che non ci siano gruppi, musicisti che fanno pezzi loro, il fatto è che ce ne sono veramente tanti e la situazione dal punto di vista della gestione del live è diventata abbastanza confusa. Comunque i soldi sono sempre pochi e con l'avanzare dell'età, permettimelo, gli impegni certo, cambiano. Certo. E quindi spostarsi diventa un po' problematico. Anche perché appunto la definizione di musicista ormai è scomparsa. Esattamente. Quindi il problema secondo me non è tanto di fare i pezzi propri, il problema è che c'è veramente tanta richiesta. Ma i tribute band hanno distrutto forse la musica, nel senso hanno tolto gli spazi alla gente che fa, ai musicisti che fanno musica propria, secondo voi? No. Ha avuto il suo periodo forse in cui poteva essere scomoda per chi faceva musica propria, e adesso il problema è forse il contrario, cioè c'è troppa gente che fa musica propria, come dicevamo l'utilizzo dei computer, delle nuove tecnologie ha permesso davvero il dilagare di qualunque... Di disco fatto in casa, di cani e porci, possiamo dire. Sì, neofita musicale, ma nonché i DJ, cioè soprattutto i DJ hanno spopolato proprio. Hanno fatto la loro parte in questa carneficina della musica live, e quindi il problema sostanzialmente è questo qui, siamo tutti dei grossi produttori, anche le etichette sono scomparse praticamente, certo, perché ormai ogni musicista è l'etichetta di se stesso, la vendita non è più minimamente controllata, perché alla fine chiunque può vendere ovunque, e per cui insomma è chiaro che la quantità, come spesso succede, ha ucciso la qualità. Dimmi, Peter. No, dico, c'è molta confusione in questo mondo. Poi, oddio, ormai è facile fare musica, e ci mancherebbe che uno non può farlo. Cioè, oddio, cioè uno ha voglia e capacità, lo può fare. Il fatto che mettere tutto nel calderone con tutti gli altri, poi si fa molta confusione. E quindi i progetti magari un po' più seri si vanno svanendo piano piano, perché non c'è più energia, fondamentalmente manca quello. E poi vabbè, il mercato della difficoltà nel suonare nei locali ormai è veramente deleterio, perché uno è produttore, manager di se stesso e si trova l'edat, fa tutto e i locali vogliono questo. E quella è la cosa che funziona. Quindi chi ha più forza va, chi non ce l'ha, chi effettivamente nasce come musicista, nasce come artista e non ha le competenze e capacità da imprenditore, quindi viene tagliato, svanisce lì. Ma il progetto non vuol dire che non vada bene. No, assolutamente. Quindi deve essere sia produttore, ingegnere, deve essere uno che fa tutto praticamente. Sì, il fatto che tu suoni, il fatto di suonare non è così fondamentale alla fine, se vuoi suonare in giro, purtroppo. Cioè vince il business praticamente, sì, sì, adesso. Assolutamente. Anche una volta vinceva il business, però c'era la qualità. C'erano dei personaggi, dei discografici che miravano alla qualità e non al bile denaro, cioè ai guadagni primis. Invece adesso le cose sono cambiate, non esiste più il talent scout, o meglio, una volta esisteva, adesso cioè li fai da te. Esattamente questo. Sì, sì, sì, sì. Benissimo, 23:38, io proporrei un altro pezzo da disco, ne abbiamo scelto 4, ma ancora uno mi pare di supporto, avevamo detto all'inizio di... In scaletta abbiamo deciso le cose. Ti ricordi che pezzo avevamo scelto? Come traccia numero 6, mi pare, è vero? No, al contrario, la 9. Ah, la 9, vedi. Ho sbagliato assolutamente. Adesso la sentiamo. Vabbè, è ancora presto, è ancora 20 presto. Minuti live, quasi. Canto di un boemo sommerso. Perfetto. Lascia tutto e va dentro questo mare di fertilità che aspetta te. Lascia il corpo andare via, scivolare la marea nella solitudine. Ed non avrai né un preciso suono, ma solo silenzio. Rock Wave, l'onda del rock. Siamo a buon punto, Maurizio. Sì, siamo quasi sì, 43, quindi abbiamo circa un quarto d'ora. Con il Frank Spara. Francesco e Pete e Renna, beh, soprattutto Francesco, l'arrangiamento di questo pezzo, hai messo un po' di elettronica qua, leggermente. L'hai messa. O presunta tale, queste pseudo trombe, pseudo fiati. Sì, è un sintetizzatore. Esattamente, io volevo dirlo, ma l'hai detto. Un Moog. Quello grasso di una volta. Che è, appunto è capace di fare, di creare queste sonorità simili. Un po' Hills, secondo me. Simili, sei d'accordo. Alle trombe, appunto. Esattamente. È bello, è bello. Poi, appunto, l'elettronica è presente nel senso di rielaborazione, qui anche qui prima abbiamo parlato di cinguettii, sì, esattamente, ci nell'albero c'erano i cinguettii, sì. Qui ci sono invece i gabbiani, i gabbiani. Che fanno un gran casino e anche lì è cercato di lavorare. I gabbiani fanno sempre un gran casino dal punto di vista proprio di modo di fare. Sì, è vero, però a volte puliscono un po', sì, la spiaggia, quello sì, è importante. Anche se quest'anno abbiamo visto i piccioni, è vero, sì. È vero. Nuova moda, sì. E quindi l'elettronica era presente in questa misura qui. Per il resto sono rimasto sempre sull'acustico, chitarre acustiche. No, c'è una chitarra elettrica qui. Ma questo è un disco prettamente acustico, possiamo dirlo, Francesco, assolutamente acustico, come abbiamo detto all'inizio, con piccole variazioni, piccoli accenti di elettricità. Esattamente, piccoli. Piccoli. Ma ci vogliono, devono essere i piccoli accenni di elettricità. Visto dal vivo ci sono più di un piccolo accenno di elettricità dal vivo quando hai fatto i pezzi, o no? Sì, beh, come Renna usa la se Renna adesso comincerà a suonare con voi, no? Sì, Renna suona con voi. Suona con usa l'elettrica oltre all'Ovation che ho portato stasera. Certo, beh, lui sì. Come sei, Renna? Sei più elettrico o acustico? Sei più elettrico o più acustico? Ma l'acustica la uso poco. Con noi la uso. Esatto, sì, fondamentalmente sì, più elettrico poi nel senso. Sei elettrico te, praticamente. Però... Non hai citato in Jimi Hendrix, stranamente, come mai non hai citato Non Jimi l'ho Hendrix? Citato, è vero, perché non ti saprei dire un disco... Sarei più per pezzi diversi. Però, esatto. Beh, Jimi è tutto. Però sì, decisamente. È tutto, perché tutto... Io di chitarra non me ne intendo, cioè non sono un... Non suono la chitarra, però chi suona la chitarra elettrica ha detto: se non ci fosse stato Jimmy su certe cose, non ci sarebbero state determinate sfumature. Sì, sì, sì, sì. Han fatto al di là di tutti i mostri sacri, tipo Eric Clapton, eccetera, eccetera. Però anche Eric Clapton partiva sempre da fighetto, ma sì, anche quello. Anche se è uno dei miei preferiti, comunque. Però sì. È vero. Poi avevamo parlato di ristampe. Slow Hand è uscito da qualche giorno. Sesto disco, sei dischi di Slow Hand, anche quello è una cosa meravigliosa, ma sono sei dischi, originalmente era un disco solo, quello live, un live bellissimo del 77, proprio di industria, di business, come giustamente tu hai detto a microfono spento, perché è giusto che, cioè i nomi classici che vendono, i nomi emergenti, non attirano, c'è poco da fare, l'industria è quella, l'idea è quella, c'è sempre più difficoltà. Ma noi andiamo avanti. Però. Noi abbiamo Renna. Noi abbiamo Renna, esattamente. E il nostro Jimi Hendrix. Proprio di Renna e Jimi Hendrix. Facciamo un altro pezzo, dai. Facciamo un altro pezzo. A proposito di questa diatriba eterna di indipendenti, di major, minorati e maggiorati, noi facciamo un eroe minore. Ah, perfetto. Si faccia trovare, ma che ti sappia portare dentro una nuova visione, che non voglia dire quello che piace a te, ma che sappia dare la soluzione, un volto che l'amaro sa nascondere con un sorriso però non facile. Insegna a te il modo di travolgere con il coraggio di chi sa combattere. sua strada sbagliata, preferirà una prigione alla nostra libertà vigilata. Eravamo ladri senza le mani, resteremo soli senza fusioni. Un tocco che non sempre sa sconfiggere, con uno stile però invidiabile, invidiabile, invidiabile. Vedi sicuro che sia credibile. Rockwave, Rockwave, l'onda del rock. Rockwave Live. Quasi punk, caro Renna, sì, all'inizio sì. L'hai fatto quasi punk. Come mai questa idea bella, bella di quasi punk? Sì, è quella dal disco è molto diversa, effettivamente. Ma perché è un pezzo abbastanza carico, e alle prove abbiamo provato a fare un po' così, sì, quasi punk. Poi Vito Pete è scatenato, era sì, scatenato, sì, veramente. Sì, sì. Si è fermato, si è ripreso, si è fermato, sì. Si è ripreso. Poi ci dava di gusto, ci dava sì, di gusto. Sì, questo è effettivamente un pezzo carico, infatti. E poi c'è il basso di Francesco. Stavolta contornava lui, era la fase, cioè chiudeva il cerchio, mentre tu l'hai iniziato te il cerchio, Peter l'ha proseguito e poi Francesco l'ha chiuso, secondo me. Stavolta hai fatto così. L'ho chiuso bene, Rena. Perfetto. Sì, sì. Rena è stato soddisfatto, sì, l'hai chiuso bene. Molto severo. Stavolta, molto severo con te, sì. Anche con se stesso. Anche con se stesso. Beh, è interessante, quindi molto vivace, molto... accattivante e movimentato, è giusto che sia così. Siamo quasi verso la mezzanotte, vediamo, te svegli gli ascoltatori fino a mezzanotte, quindi. E dopo, anche l'autista della macchina. Esatto. E anche l'autista della macchina, sì. È fondamentale, sì, assolutamente, però si vede che ha ritmo stasera l'autista della macchina. C'è poco da fare. Benissimo, siamo quasi verso la conclusione, ma ancora qualcosa da dire, sì. Quindi il disco... c'è qualche idea? Francesco, hai scritto qualche altro pezzo che hai messo nel cassetto per motivi diversi e lasciato là, e poi può darsi. Sì, possiamo dire in anteprima. Ma certamente, qui possiamo dire tutto. Che stiamo lavorando al disco nuovo. Ah, bene, bene. Anche se in realtà forse loro lo imparano adesso. Ah, non lo sapevano. No, non è vero, non è vero. Non è vero. ci sono già i pezzi nuovi. Adesso ci sono più che altro delle scelte esistenziali da affrontare prima di quelle artistiche. Dopodiché vedremo un po' il da farsi. Però comunque la penna sta andando avanti. È già in movimento. Sì, scelte esistenziali collegate assolutamente con quelle artistiche. O più importanti quelle esistenziali. Quelle artistiche vengono dopo forse. Ma sì, ma l'arte no. Infatti l'arte non è che ci interessa. Anzi, diciamo che l'esistenza nostra è intrisa dell'arte di cui ci occupiamo. Però purtroppo abbiamo un corpo. Ci è dato, certo. Ci è dato un corpo e dobbiamo che, mantenerlo, che ha delle esigenze, certo. Prima ancora di quelle della mente. A meno che non andremo fuori completamente di senno, per cui privilegeremo le necessità della mente a quelle del corpo. Fino ad allora dovremo prima preoccuparci di altre cose che di altre. Quindi il dottor Crepapelle e l'albero che cammina avrà un successore, insomma, praticamente. Sì, questo di sicuro. Lo dobbiamo almeno ai nostri fans che infatti continuano a seguirci e a chiederci appunto di andare avanti e di non mollare. Ma noi siamo come qui. Sono i fans di Frank Spara, come sono? Ma si dividono in due tipi. Ci sono i fan intellettuali che insomma apprezzano molto, mi fanno un sacco di domande, eccetera. E poi ci sono le fan giovani, che vanno dietro a Renna. E beh, impari tutto. Lui è giovane, esatto. lui è giovane. Poi è una new entry, quindi. Esatto. Quindi insomma Renna è fresco. Funziona anche a livello di immagine. Sì, ringiovanisce. Un po' il target medio della band. No, insomma, dobbiamo accontentare tutti, giustamente. Giusto, sì, comunque giusto. Più o meno è un pubblico un po' maturo. Sì, è un pubblico un po' maturo, a parte... Renna, che è giovanissimo. Esatto. Che però fa bene, che però comunque permette anche ai più giovani di crescere e di avvicinarsi a un tipo di musica diversa. È diversa, non è sempre la solita. Meno convenzionale. Esatto, Frank Spara è una musica di ricerca, secondo me, possiamo dire anche questo in alcuni momenti. Acustica cerchiamo, di ricerca. Cerchiamo di essere di ricerca. Sì, magari a primo ascolto... bisogna sentirlo il disco. Esatto. Secondo me il primo ascolto, il primo pezzo... E subito va immediatamente. Gli altri vanno lo stesso, però dobbiamo sentirli con una certa, rilievo. Ma è giusto che sia così. L'idea deve essere così. Ma Francesco, un vero disco, sì. Se no, altrimenti, dopo due ascolti, via. Appunto, non va la pena. Il disco deve essere ascoltato con calma. Una volta si usavano i dischi usa e getta, cioè su 7-8 pezzi, uno valeva e gli altri sei un po' meno. Capita ancora, però, qualche volta. No? Cosa dici? Sì, adesso abbiamo... Adesso ma neanche uno se ne trova a volte. Sì, abbiamo i pezzi singoli che devono essere consumati in un attimo. I pezzi singoli che devono essere consumati in un attimo, ha detto una cosa giusta. Perché il mercato impone per tutte queste cose, la gente dopo due mesi non si ricorda neppure l'inizio del pezzo singolo. Esagerato. No, dici? Ti ricordi? A volte anche meno, effettivamente. Bravo, Sergio, a volte. Sì, magari il brano sì, ma non l'artista. Questo è poi il bruttissimo. Vero. Comunque sì, anch'io che sono entrato poi da dopo poco. Molte canzoni, anzi quasi la maggior parte non le conoscevo, e ho avuto proprio anch'io questa sensazione che appunto le dovevo ascoltare un po' per entrare, ed effettivamente dopo le apprezzi molto di più. Sì, perché giusto, hai detto una cosa giusta, Ren, il disco deve essere così, secondo me. Sì, anche secondo me. Si deve ascoltare con calma. Sono quelli che poi magari all'inizio non avevo ben capito cos'è che, e poi dopo però c'è qualcosa che te le fa ascoltare ancora e dici vale bello. La pena. No, esattamente. Allora sono 23:55. Abbiamo ormai finito questa cavalcata. Facciamo la tirata finale, come certo, altre volte. Due o tre brani in fila. No, dovete fare un pezzo live. A lungo, un pezzo live lungo praticamente. No, non era così. Un pezzo live lungo. Allora adesso presentiamo invece un brano che era presente nel primo dei miei lavori. Il tuo è un primo EP, possiamo dire così? Sì, era già un album di 9 canzoni. Mi ricordi ancora la data? Parliamo del 2006-2007. Protostoria del nostro gruppo. E il brano si intitola Cani Neri Messicani, che è un brano che prende spunto, il cui testo prende spunto da una poesia di Boris Vian, un poeta del Novecento, a me molto caro, Cani Neri Messicani. Perfetto, allora ci salutiamo qua, io vi ringrazio della partecipazione. Facciamo solo un brano? Sì, ma un brano lungo, fino a mezzanotte, un brano esteso, facciamo così. Sì, ce la fate, sì, un brano esteso, una jam session, una specie di jam session. Vabbè. Allora chiudiamo, salutiamo adesso. Esattamente, grazie a Sergio in regia. Grazie a voi. Ricordiamo che domani, concerto di Natale, quindi domani giovedì con Agostino. E chi c'è? E la compagnia Muge. Dillo, no. Ah, scusi, è Natale con la compagnia Muge. Hanno un sito, ricordiamo di nuovo, sì, esatto. Magari. Ricordate il vostro sito, ragazzi? Sì, www.frankspara.co.uk, quindi siamo dominio inglese. Ma comunque basta mettere Frank Spara tutto su attaccato. Su Google e via dicendo, esce un po' di roba si trova. Grazie a Francesco, a Pete e a Renna, e buon ascolto. E buon ritorno a Bologna. Anche Alberto. Grazie. Dobbiamo anche salutare assolutamente Alberto Prisco, il nostro curatore e direttore artistico, che vi ha voluto fortissimamente stasera e vi ha sentito sicuramente. Noi ringraziamo. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte a tutti e grazie. Non vorrei crepare prima di aver conosciuto i cani neri messicani che dormono senza sognare, o le scimmie a culo nudo, voraci tropicali, i ragni d'argento nei nidi di bolle. Non vorrei crepare senza sapere se la luna dietro la faccia di antica moneta non abbia una parte puntuta. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da